Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani e ben ritrovati alla nostra trasmissione. Come vi dicevo anche negli ultimi giorni, ci stiamo portando verso questo Natale, quest'anno, con delle trasmissioni un po' particolari, magari guidandovi anche alla lettura di alcuni libri, quelli che sono usciti negli ultimi mesi. Non abbiamo sempre tempo di farlo perché ci dobbiamo occupare appunto della stretta attualità, e quest'anno gli argomenti, per fortuna e sfortuna, non ci sono mancati. Però oggi abbiamo scelto appunto di presentarvi un libro che è anche abbastanza particolare, dato il taglio di Salva Danaio, però sono sempre letture interessanti e che comunque riguardano la vita di noi tutti come contribuenti. Allora, ci siamo resi conto della gravità della crisi economica che ha colpito noi negli ultimi anni e tutto il mondo insieme a noi. Le famiglie italiane hanno avuto, come sapete bene, perché l'ultima l'abbiamo pagata poco fa, un incremento di tassazione, perché ci hanno spiegato che andava salvata l'Italia attraverso un aumento delle nostre capacità appunto di mettere a disposizione le nostre risorse per poter fare questo salvataggio del nostro paese. Però gli aiuti diretti alle famiglie sono sempre meno. Per questo ci indigna ancora molto sapere quanto lo Stato sperpera e quando appunto finanzia magari le imprese, perché di queste parleremo questa mattina, e questo appunto danneggia anche un po' il mondo dei noi piccoli contribuenti. Ho fatto un discorso un po' complicato per anticiparvi che oggi vi presenteremo il libro di Marco Cobianchi, che è un collega di Panorama che saluto. Il libro si intitola Mani bucate. Marco, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a te. E questo è il tuo pensiero, nella sostanza, che articoli e documenti e circostanzi molto bene appunto in questo libro. Quello di cui si parla, lo anticipavo anche durante il giornale radio, è l'industria dei sussidi statali appunto italiani a tutte quelle imprese che sicuramente ne avranno fatto un buon uso, ma non tutte ne hanno fatto un buon uso. Il libro è anche molto ampio di racconti, di esperienze dirette, e soprattutto quello che si capisce è che molto spesso l'aiuto dello Stato, il finanziamento dello Stato, non solo non serve a niente, ma addirittura appunto lo documenta la Banca d'Italia, non fa crescere minimamente il prodotto interno lordo del nostro paese. Questo sarebbe, diciamo, l'obiettivo primario. Non è che viene demolito in assoluto nel tuo libro, Marco, il sistema degli incentivi statali appunto all'impresa. Il tema è che il risultato non si vede. Racconteremo appunto nel dettaglio quello che Marco ha scoperto indagando in questo mondo. Peraltro hai anche la pessima abitudine di indagare in questi meandri, perché hai scritto in passato Bluff, perché gli economisti non hanno capito la crisi, e Nati corrotti. Nel frattempo hai scritto anche questo. Nati corrotti, tra l'altro, a chi si riferisce? Ma Nati corrotti è un titolo molto forte, si riferisce tendenzialmente agli italiani. Nati corrotti è una storia d'Italia attraverso le mazzette che hanno attraversato le vicende politiche, economiche, dallo sbarco di Garibaldi in Sicilia fino a Lusi e alle vicende più recenti, proprio di quest'anno. Ecco, se noi leggiamo la storia d'Italia attraverso le mazzette, noi capiamo delle cose che sono abbastanza nascoste. Ad esempio il delitto Matteotti, ecco, per noi italiani il delitto Matteotti è un delitto politico. Sui giornali anglosassoni dell'epoca il delitto Matteotti è stato messo in relazione a un giro di mazzette che incassavano il regime Mussolini e i suoi accoliti, perfino addirittura si sospetta il re. Quindi è una storia d'Italia attraverso le mazzette, è una cosa abbastanza, devo dire, quando l'ho scritto, deprimente, però è giusto guardare le cose con gli occhi aperti e non celare niente, non nasconderci niente. Cioè, purtroppo nella nostra storia d'Italia c'è anche questo. Una volta che si sceglie di percorrere questo filone, Marco, vedo che non lo si abbandona più, data appunto l'inchiesta che hai condotto con Mani bucate. Sì, perché si aprono, come dire, delle strade, poi una volta che la cominci a percorrere si trovano altri bivi. No, io infatti quando ho scritto questo libro davvero mi veniva in mente la battuta più bella di tutta la cinematografia mondiale, che è la fine di Blade Runner. Ho visto cose che voi umani davvero non potete neanche immaginare, perché ho visto dei soldi dati agli alberghi di Capri perché Capri è un'area depressa. Ho visto soldi che sono andati ai produttori di bottoni per la ricerca e sviluppo, poi scoprendo che la ricerca e sviluppo era definita come la predisposizione del campionario. Ho visto soldi che sono serviti per finanziare gli ski lift del nord, del centro e del sud, una seggiovia ad esempio anche in Sicilia, perfino in Sicilia, e noi abbiamo detto all'Unione Europea che questi soldi erano necessari perché gli ski lift non erano strumenti di turismo, insomma, per far sciare appunto le persone, ma vie di comunicazione locale, e l'Europa ci ha creduto. Ho visto davvero soldi sperperati in qualsiasi modo, e quello che mi fa male è esattamente quello che hai detto tu, e cioè che non sono tendenzialmente contrario ai sussidi pubblici, il fatto è che non producono nulla. Tu citavi la Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha detto, quando Draghi era governatore, hanno fatto un convegno di cui si è letto pochissimo sui giornali. Io ho letto tutti gli atti di quel convegno ed è spaventoso, perché non c'è stato uno solo che avesse detto che i sussidi servono. Non servono a nulla. Nel sud Italia tutti i sussidi che vanno alle imprese del mezzogiorno hanno fatto aumentare il PIL del mezzogiorno dello 0,15%. Rispetto a quanto sarebbe cresciuto senza i sussidi. Negli altri paesi europei i sussidi fanno aumentare il PIL di minimo il doppio, se non il triplo. Questo significa che i sussidi non servono. Allora, io vorrei naturalmente stamattina raccogliere le testimonianze e, se volete, anche la vostra indignazione, come sempre all'800240024, probabilmente non tutti avrete letto il libro di Marco Cobianchi, ma magari vi è capitato di guardarvi intorno e di esservi sentiti raccontare di qualcuno che qualche sussidio pubblico lo aveva ricevuto. Avete notato, insomma, qualche atteggiamento stravagante anche nell'utilizzo di questi fondi, che peraltro non è neanche facile ottenere, perché ci sono anche delle istruttorie complesse da mettere in piedi, domande lunghe appunto da inoltrare. Adesso allora cercheremo di capire anche come mai poi tutto questo denaro invece viene concesso a molte società, quali sono magari i settori che hanno un po' più così hanno avuto più facilità nell'ottenere queste risorse e che cosa ne hanno fatto, appunto, con che risultati. Non ci salviamo peraltro, Marco, neanche noi, perché anche l'editoria in questi ultimi anni è stata foraggiata in maniera consistente dallo Stato, e non appena appunto queste risorse hanno cominciato ad essersi ridotte abbiamo visto giornali sparire dal panorama editoriale italiano e purtroppo anche tanti colleghi rimanere a spasso. Però effettivamente non è sempre giusto che anche questo settore venga così alimentato in maniera così pesante. Sull'editoria, io davvero, come dire, c'è quasi un conflitto di interessi, perché tutta l'editoria, per un certo numero di anni, tutta l'editoria italiana, carta stampata, TV, radio, è stata sussidiata dallo Stato. Tendenzialmente io sono a favore, nel caso dell'editoria sono a favore dei sussidi, perché penso che più voci ci siano in edicola e meglio è. Però anche in questo caso poi vai a vedere nel dettaglio a chi vanno i soldi e scopri di tutto, cioè scopri, non so, dei giornali, uno che si chiama Mari e Monti, che non è l'ausorgan del governo, ma che è Cavalli e Segugi di Notting Hill, per esatto, esempio. Esatto. Quindi trovi truffe, trovi malversazioni, trovi editori finti che intascano i soldi e poi licenziano i giornalisti anche se ricevono sussidi, trovi delle ruberie di tutti i tipi, ovviamente non solo l'editoria. Quindi quello che è necessario, ed è stato fatto almeno nel settore appunto dell'informazione, è una razionalizzazione molto, molto seria, cioè finanziare i giornali che hanno qualche cosa di originale, di nuovo, di diverso da dire rispetto al mainstream. Io su questo non ho nessuna preconcetto, quindi per me va benissimo, però il punto è che non puoi finanziare tutti i giornali, anche perché c'è un riflesso che forse non viene colto spesso, che se lo Stato finanzia i giornali diventano governativi, e questo è proprio automatico. i sussidi all'editoria e al cinema, ad esempio, un altro settore spaventoso. Non ce lo bruciare questo settore, perché abbiamo tratto una pillolina che leggeremo dopo. Allora, dal tuo libro. No, ti dico soltanto questo, che i finanziamenti pubblici al cinema sono nati sotto il regime fascista e sono nati proprio perché il regime fascista aveva bisogno di film, di registi, di attori che promuovessero il regime. Sostanzialmente questo concetto, qualsiasi, ovviamente adesso siamo, è evidente che siamo una democrazia, ma è sostanzialmente lo stesso, cioè lo Stato finanzia i film e i film sono sostanzialmente non antigovernativi. Allora, per gli ascoltatori che ce lo stanno chiedendo, non l'abbiamo ricordato più volte, quello che stiamo presentando questa mattina è il libro di Marco Cobianchi, Mani Bucate, vice responsabile della redazione economica di Panorama, oltre che una lunga esperienza giornalistica naturalmente, e autore anche in passato di Nati corrotti e bluff perché gli economisti non hanno capito la crisi. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Potete interagire con noi questa mattina, come sempre. Appunto, vi stiamo raccontando questo libro che racconta chi finiscono i soldi che gli italiani versano allo Stato attraverso le tasse e che lo Stato usa anche per sostenere l'impresa privata, qualche volta appunto senza capire bene anche che destinazione ha questo denaro. Allora, vi faccio sentire un primo stralcio del libro che abbiamo appunto letto, ci abbiamo creato questa nostra prima piccola pillola, sentiamola. Non esiste in Italia un solo settore economico che non sia sussidiato. Lo Stato elargisce soldi a tutti, perfino alla borsa. E l'effetto di questa pioggia di soldi è che tutto ciò che compriamo l'abbiamo già pagato con le imposte, prima ancora di passare alla cassa. Le nostre tasse sono servite per finanziare la neve artificiale, il quotidiano del mattino, il caffè, l'automobile, la benzina e perfino l'idromassaggio nell'hotel di lusso. Per gli ottimisti, il sussidio è il fertilizzante che può concimare il campo dell'imprenditore perché produca frutti sempre migliori. Non è vero. La particolarità dei sussidi italiani è quella di essere perfettamente inutili. È stato calcolato che l'effetto dei sussidi alle imprese del Mezzogiorno sia stato quello di far crescere il PIL del Sud dello 0,25% in più ogni anno tra il 2000 e il 2005. In altre aree depresse dell'Europa, la crescita nello stesso periodo ha oscillato tra il triplo e il quadruplo in più. Ciò significa che i cittadini italiani ricavano benefici assolutamente marginali dai sussidi alle imprese. Benefici che durano fino a quando lo Stato non stacca la flebo, interrompendo il flusso di denaro pubblico. A quel punto, troppo spesso, scatta la minaccia, o gli incentivi, o la chiusura. Ecco il meccanismo con il quale le grandi imprese finiscono per ricattare lo Stato. E infatti il primo capitolo del tuo libro è dedicato alla Fiat. Non voglio aggiungere altro, perché invece, Marco, voglio subito commentare con te l'inchiesta di Ettore Livini di questa mattina su Repubblica sul salvataggio all'Italia, che sarebbe tutto da rifare dopo già quello clamoroso che si è consumato qualche anno fa, che ha lasciato peraltro in grande difficoltà i dipendenti, come sappiamo, della ex compagnia di bandiera, tanti piccoli ex obbligazionisti ed azionisti, fra questi anche gli stessi dipendenti, perché parte dello stipendio, dei bonus anche annuali venivano erogati in Mengozzi Bond. E adesso, senza ricostruire tutta quella vicenda che fu anche abbastanza difficile da raccontare in quel periodo, adesso ci risiamo. Anche di Alitalia ti occupi in questo libro. Sì, mi occupo dell'Alitalia perché io definisco il sussidio all'Alitalia il sussidio perfetto, illegale e perfetto. Illegale perché l'Unione Europea ha imposto all'Italia che l'azienda restituisse i famosi 800 milioni di prestito ponte, che forse ascoltatori si ricordano, cioè quando l'Italia rischiava davvero di non partire più, insomma c'erano aerei fermi negli aeroporti di tutto il mondo e non li facevano ripartire perché non pagavano il carburante. Il governo decise, entrante e uscente in accordo, di varare questo prestito ponte di 800 milioni. Era illegale. L'Unione Europea impose all'Alitalia di restituire questi 800 milioni, bene, non verranno mai restituiti e non verranno mai restituiti in modo legale, cioè siccome è stata creata una bad company che dovrebbe restituire questi soldi ma non li ha fisicamente, bene, noi abbiamo investito, per essere ottimisti, questi 800 milioni che non vedremo mai più. Poi i peggiori pronostici rispetto alla vita dell'Italia si sono purtroppo realizzati, come appunto racconta oggi molto bene Livini su Repubblica. Allora, a proposito della Fiat, ma non solo, c'è Roby, un ascoltatore al 349-238-6666, che ricorda come è funzionato negli ultimi anni il mercato automobilistico in Italia, che è stato sostenuto con la scusa della rottamazione, naturalmente qui molti incentivi fiscali di cui hanno beneficiato anche le famiglie. L'acquisto dell'auto non è evidentemente un impegno finanziario di poco conto, quindi bene se si tratta di sostenere anche la famiglia nel cambiare l'auto, perché poi bisogna anche viaggiare in condizioni di sicurezza, non solo in condizioni esteticamente buone. E però è vero appunto che è stato un mercato drogato, e adesso effettivamente i cali delle immatricolazioni in Italia sono costantemente a doppia cifra. Era un mercato gonfiato, dice Roby. Quanto è stata sostenuta questa, che poi quando parliamo di industria automobilistica in Italia, qua per forza di cose non è che possiamo parlare di tanti marchi. Guarda, io non parlo nel libro di rottamazione per un semplice motivo, che non è dal punto di vista formale un aiuto alla Fiat, è un aiuto a tutte le case automobilistiche, no? Quindi io non ne parlo, lo cito ovviamente, cito gli ultimi 5-6 operazioni di rottamazione. Quello che io ho indagato nel capitolo Fiat, che tra l'altro è stato il capitolo che mi ha portato via più tempo, circa 6-7 mesi ci ho messo, sono i soldi che lo Stato ha dato alla Fiat, soldi cash. Quelli mi interessano, cioè io voglio sapere quanti soldi sono andati cash alla Fiat negli ultimi 10 anni. E anche in questo caso devo dire, ho visto cose, perché noi abbiamo finanziato i condizionatori delle fabbriche della Fiat, abbiamo finanziato dei progetti, uno ad esempio l'ha citato Clini, il ministro Clini, poco dopo, a gennaio mi pare di quest'anno. Perché cioè... non ti sta bene che siano stati finanziati anche i condizionatori? Magari è giusto che un operaio in catena di montaggio lavori in luglio con una temperatura decente. Perché penso che lo debba fare la Fiat. Ah, ecco, in questo senso. Che altrimenti lo Stato deve finanziare i condizionatori di tutte le fabbriche italiane. Non vedo perché a una sì e alle altre no. Lo deve fare la Fiat all'interno di una trattativa con i sindacati, anche una trattativa diciamo maschia, cioè io sono, anzi mi piacciono le trattative anche forti, anche addirittura violente, però deve essere responsabilità dell'azienda finanziare i migliori modi di produrre. Tornando ai soldi all'azienda, credo che però alla base di tutto, poi chi vuole se va a vedere quanti soldi abbiamo dato, alla base di tutto ci sia un sbagliato modo di ragionare, e cioè il modo di chi dice occorre un piano industriale, no, per l'Italia. Allora, i piani industriali pubblici in genere hanno prodotto dei disastri. Termini Imerese, che oggi è veramente, non se ne parla più, ma Termini Imerese, finanziata ovviamente con soldi pubblici, è una tragedia, ed è stata questa tragedia prodotta quando lo Stato ha deciso di dare soldi alla Fiat perché facesse una fabbrica in Sicilia. In quella fabbrica in Sicilia non l'ha voluta nessuno quando la Fiat l'ha abbandonata, la Fiat di Marchionne l'ha abbandonata. Quindi l'errore a monte è pensare che da Roma si possa decidere che cosa è bene che un'azienda faccia, che cosa è bene per l'Italia, perché succede questo, ed è lo stesso caso dell'Alcoa, che è addirittura peggiore del caso di Termini Imerese. Succede che se tu dai soldi a un'impresa perché faccia una fabbrica in un certo posto, poi sei costretto a darglieli per sempre, per sempre, perché il momento in cui, come diceva, stacchi la flebo, la fabbrica chiude e tu hai un problema sociale che è ingestibile, così come è ingestibile purtroppo il problema sociale dei dipendenti dell'Alcoa e di tutte le aziende, le grandi aziende sarde. Marco è andato alla ricerca di un po' di dati, e appunto di quanti soldi stiamo parlando, perché questo è anche il titolo specifico di un capitoletto, Marco. Allora, questa è la domanda cruciale, cioè quanti soldi vanno alle imprese ogni anno? Io ho stimato, dunque per scrivere questo libro ci ho messo 2 anni e mezzo, perché non c'è un solo numero di questo libro che non sia ufficiale, quindi tutti i numeri, cioè i miliardi, milioni, centinaia di migliaia di euro, eccetera, che io dico sono andati all'impresa X o all'impresa Y, sono numeri ufficiali. Per fare questo, appunto, ho impiegato circa 2 anni e mezzo. C'è un solo numero che non è ufficiale ed è quello che sto per dire. Io ho stimato che in un anno vadano alle imprese private circa 30 miliardi di euro. Questa stima è stata confermata autorevolmente da Francesco Giavazzi in un editoriale del Corriere della Sera uscito una settimana dopo l'uscita del libro. E più o meno il valore, diciamo, dei finanziamenti pubblici alle imprese private è di 30 miliardi. Attenzione, non sono tutti soldi che escono dalle casse dello Stato, cioè non è che lo Stato ogni anno tira fuori 30 miliardi, perché una buona parte di questi soldi vengono presi direttamente dalle nostre tasche. Il caso più clamoroso è quello dei famosi oneri di sistema che noi ci ritroviamo nelle nostre bollette elettriche. Se noi andiamo a vedere le varie voci che compongono una bolletta, c'è una voce che si chiama oneri di sistema. Quegli oneri di sistema servono per finanziare soprattutto, cioè la parte più importante, va ai produttori di energia elettrica verde. Ora, dati dell'Authority per l'energia, solo quest'anno si stima 10,6 miliardi di euro che vengono prelevati dalle tasche degli italiani e vanno ai produttori di energia elettrica verde e assimilati, che è il famoso CIP 6 di purtroppo lunga memoria. Quindi la stima che io faccio non è mai stata smentita con dati alternativi di 30 miliardi. Allora andiamo a toccare i singoli settori, perché appunto, come Marco ricorda nel libro, non esiste in Italia un settore economico che non sia sussidiato, per cui un po' di finanziamenti arrivano a pioggia a tutti, dal settore bancario all'agricoltura, alle telecomunicazioni, trasporti, turismo, lo sport, il mondo finanziario in termini generali. Fammi dire solo questo, la famosa legge Amato, che ha consentito la fusione di diverse banche tra di loro e la nascita di Banca Intesa e Unicredit, la legge Amato è una legge che fornì sconti fiscali alle banche che si fondevano per alcuni miliardi di euro. In questo caso sono stati restituiti, però bisogna dare atto alle banche che hanno ripagato. Ecco, perché il principio è anche questo, che se tu hai bisogno temporaneamente di un aiuto, come sta avvenendo anche in questo momento con i Monti Bond e Banca Monte dei Paschi, anche la Commissione Europea, che ha dato nei giorni scorsi il via libera a questa operazione, ha detto guardate che sarà temporanea e questi soldi dovranno essere restituiti e soprattutto vincolati alla presentazione di un rigido piano di ristrutturazione della banca da parte di Alessandro Profumo. Per cui se poi il meccanismo funziona, bene, il problema è che qua funziona quasi mai, ci pare. Allora, mi scuso con gli ascoltatori che ho fatto attendere un po', Giacomo da Lucca, buongiorno. Sì, buongiorno, non so se la mia quello che dico è inerente alla trasmissione, comunque io sono sì appunto un piccolo editore che mi sono inventato la mia vita a 50 anni. Da tutt'altra cosa, non sto qui a fare tutta una geografia della mia vita, a 50 anni sono diventato scrittore ed editore. Ora, non sto a dire tutte le cose, eventualmente se vi interessa, perché io credo di essere un caso abbastanza particolare in Italia, perché io prendo le città e le metto in poesia, tutte le città. Quindi a prescindere da questo, ma quello che mi interessa, perché io vivo di me stesso, della mia vendita dei miei libri, ho là proprio casa a casa addirittura, questi soldi, siccome ho due collaboratori e mi piacerebbe, mi sente? Sì, la sentiamo, stiamo appesi alle sue labbra Giacomo, perché ci piace molto la sua testimonianza, certo, non la volevo disturbare, non la volevo interrompere, sì. Grazie, e siccome ho due collaboratori, diciamo così, che hanno la partita IVA, sante partite IVE che stanno volando via, ci sono questi, mi parla, che comprerò senz'altro il libro dello scrittore, mi parlano di questi contributi, guardi, io le dico solamente questo, stamattina ho chiamato il mio commercialista perché ho sentito Radio 24 che il governo Monti ha stanziato soldi, io scrivo anche per entità spirituali, diciamo così, che ha stanziato soldi per la Basilica di Assisi, con tutto rispetto per Francesco Di Bernardone, televisione e anche per l'editoria. Ecco, e ho chiamato e lei dice perché io posso trovare un modo per accedere a un piccolo finanziamento, dice lei, no? Cioè vorrei capire qualcosa, ecco, tutto qui. Però. Allora Giacomo, bella domanda. Marco, tra l'altro ti devo dire che ci sono molti ascoltatori, poi se tu hai piacere daremo anche la tua mail, un modo per contattarti, perché ci sono molti ascoltatori che vorrebbero portarti le loro testimonianze per poter eventualmente arricchire un altro volume, per cui molto volentieri, anche perché chiaramente poi le storie individuali sono assolutamente vere e quindi arricchiscono ancora di più poi indagini e inchieste di questo tipo. Che ne pensi di quello che ci ha raccontato Giacomo? Guardi, io se posso dare un consiglio davvero da quasi amico di Giacomo, perché uno che si inventa la vita a 50 anni, io mi alzo in piedi e mi tolgo il cappello. Giacomo, non prenda soldi pubblici, perché poi lei si abitua, si droga con i soldi pubblici. La volta che poi li tagliano, lei va in crisi. Questo è il meccanismo perverso di un'economia drogata. Infatti io definisco l'economia italiana non statalista, non liberale, ma sussidiata. Ecco, questo meccanismo per il quale bisogna dare i soldi a chiunque va in qualche modo rotto, perché lei che ha messo in piedi una piccola impresa e riesce, onore al merito, a stare in piedi senza aiuti, io le consiglierei di non neanche andarli a cercare, ecco. Anche perché, se lei ci pensa un secondo, è una partita di giro, lei paga le tasse e poi riceve gli aiuti, quindi è anche un po' però è un messaggio ridicolo. Molto forte quello che stai dando, Marco, perché io mi chiedo, in un momento come questo in cui in realtà magari l'intervento dello Stato dovrebbe farsi sentire proprio un po' di più nei confronti di chi è un po' più in difficoltà, io non dico a pioggia e senza criterio, perché vuoi diramare un messaggio così dirompente? Per questo motivo, se io prendo un qualsiasi imprenditore, prendiamo Giacomo che ha raccontato una bella storia, e io dico a Giacomo: guardi, ha due possibilità, o 50.000 euro di incentivo, di sussidio, oppure 50.000 euro in meno di tasse. Ora, io sono sicuro, e ci gioco quello che vuoi, che Giacomo risponderebbe 50.000 euro di tasse in meno. Il concetto di Mario Monti, quando chiese a Giavazzi di fare quello studio sui sussidi pubblici alle imprese, era esattamente questo: tagliare i sussidi per tagliare le tasse. Ed è un meccanismo che lo stesso Giorgio Squinzi, presidente di Confindustria, ha approvato. Squinzi fu il primo a presentare questo libro insieme a me e disse esattamente questo: io preferisco zero sussidi, che ovviamente non si può fare, ma insomma, usiamo un'iperbole, e 30 miliardi in meno di tasse all'anno su tutte le imprese. Questa è un'economia sana. Se uno comincia a prendere i sussidi, poi non può più smettere. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre testimonianze. Però avevamo lasciato in sospeso la sollecitazione fatta da Bruno da Frosinone, che ha aperto lo spaccato del mondo agricolo a 360 gradi, parlando anche di come vengono aperti gli agriturismi. Noi abbiamo delle bellezze straordinarie in termini territoriali e tutti sarebbero degni di ospitare appunto strutture di questo tipo, e effettivamente sono molto aiutate dallo Stato queste. Sì, l'agricoltura è veramente un settore che è sussidiato in modo incredibile, soprattutto da fondi europei. Qui stiamo parlando di decine di miliardi. È una politica europea anche questa contraddittoria, perché da una parte finanzia gli agricoltori europei per difenderli dalla concorrenza dei paesi in via di sviluppo, e poi l'Europa ha un fondo che serve per aiutare l'agricoltura dei paesi in via di sviluppo. Ecco, quindi questa è la contraddittorietà insanabile di questa politica. E io cito nel libro un caso che mi ha, tra i tanti, insomma, uno che mi ha veramente fatto divertire, e riguarda la vernaccia. La vernaccia è un vino. Guarda che è di Serra Petrone, delle mie parti, stai attento allora, a quello che dici. Ti racconto come la storia della vernaccia. Mi pare nel 2004 sono stati dati dei soldi ai produttori di vernaccia perché estirpassero la vernaccia per aumentare, diciamo, il livello qualitativo dell'agricoltura dell'area. L'anno successivo sono stati dati altri soldi agli agricoltori che volessero impiantare la vernaccia. Contraddittorietà anche questa insanabile. E poi c'è il caso anche questo ridicolo, del cavallo di Pentro. Il cavallo di Pentro è un tipo, appunto, una specie di cavallo. Allora, questo cavallo di Pentro, siccome pare che sia, non sono esperto, ma pare che sia in via di estinzione, se non sbaglio. Ah no, pensavo che fosse uno stallone, chissà di quale i pregi, e quindi. No, questo no, ma allora il cavallo di Pentro è sussidiato, ha un welfare che in confronto al nostro è da terzo mondo, anche dopo le riforme del governo Monti. Vabbè, in pensione. Il cavallo Pentro è sussidiato quando nasce, quando monta, quando viene montato, quando viene esibito. Perché c'è anche la cavalla di Pentro. Ovviamente, immagino, ovviamente. E viene sussidiato in ogni momento della sua vita. Ha un welfare che, se lo scopre la Fornero, io temo che il cavallo di che Pentro... Che interverrà anche interverrà, su questa specie. Fa una riforma del welfare. Equina, dove viene allevato, tra l'altro? A Pentro, cioè immagino a Pentro. Se ricordo bene delle Marche. Ma ma sempre colpa nostra. Pentro non mi ricordo. Mi dispiace, ma è da quelle parti lì. Ma se ci sono ascoltatori dalle Marche, mi correggano. Ma se no, adesso lo vado a cercare io. Allora, Massimo da Milano, buongiorno. Qua cambiamo di nuovo completamente settore. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori. Sì, io non vi ho sentito parlare, ahimè, gli sprechi sono tanti, della scuola, della cultura, dell'università. No, perché stiamo parlando dell'impresa privata, più che altro. Chiaro, ecco. Chiaro. Porto una testimonianza molto veloce. Io mi occupo di telecomunicazioni e sono stato, ahimè, seduto 6-7 mesi in un'azienda intorno a Roma, un'azienda in cui si fa ricerca, in cui si dovrebbe fare ricerca, e che è sotto, diciamo, l'aspetto universitario sussidiato dallo Stato. In 6-7 mesi di installazioni un po' particolari ho potuto vedere cose incredibili, tipo blocchi di laboratori con dentro strumentazione di ricerca costosissima, non costosa, vi posso assicurare costosissima, inutilizzata, ma non inutilizzata da un anno, mai utilizzata. Blocchi di ricerca, intendo diversi blocchi di ricerca, e ovviamente si capirà anche qual è l'ente, perché è un ente nazionale di ricerca, in cui ci sono 1.000-1.500 persone che in 6 mesi, ahimè, estivi e primaverili, io ho visto correre nei campetti di calcio, arrivare in pantaloncini, in tuta, in scarpe da tennis, con pulmini elettrici all'interno. Non ho mai visto nessuno lavorare, giusto per riassumere, ecco, la questione. Massimo. Questo ente l'anno scorso, concludo, questo ente che è sotto l'università ha ricevuto quasi un miliardo di euro di sussidi dallo Stato, questo ente. Massimo, la ringrazio. Questo ente, Marco lo ha capito benissimo, adesso è inutile stare ad infierire, e abbiamo capito appunto tutti di quale sta parlando. Intanto abbiamo trovato che Pentro, caro Marco Cobianchi, ecco, non è nelle Marche, ma è un territorio nel comune di Montenero Valcocchiara, Isernia, ecco, regione Isernia, ecco, per ragione, cui ecco, sulla vernaccia non avevo dubbi, perché sono anche una discreta consumatrice. Per perché par mi piace. Condicio, allora, per par condicio ti racconto il sussidio ai bagnini della mia zona. Forlì, Rimini. E cioè i sussidi per quando andiamo al mare e facciamo ginnastica in spiaggia con strumentazioni ginniche, bene, quelli li ha pagati l'Emilia Romagna. Ah, ecco. Par condicio. La fai anche tu questa ginnastica? Assolutamente no. Ah no, perché già mi gustavo questo spettacolo sulle spiagge appunto romagnole. Gianluca D'Ancona, buongiorno. Qui ritorniamo ad un tema appunto che effettivamente Marco Cobianchi caldeggiava prima. Forse meglio evitare il sussidio diretto, l'imprenditore preferirebbe qualcos'altro se potesse. Gianluca, buongiorno. Sì, buongiorno. Sempre, io ho chiamato più altro perché faccio anche commercialista e per la mia esperienza ho visto che con il credito d'imposta per me è una cosa che diciamo, un finanziamento che è snello, non crea grandi problemi burocratici come possono essere altre forme di finanziamento, e in più il credito d'imposta, se mirato e anche rivisto secondo diverse modalità, potrebbe essere utile anche a stimolare le imprese, per il fatto che se un'impresa fa certi investimenti e poi quei investimenti danno la giusta produttività e utili, allora potrà godere di quel credito d'imposta. Ma se poi vuole l'azienda non produce utili, non ha credito d'imposta. Quindi il problema che si diceva prima dello Stato che deve sussidiare aziende che poi non faranno produzione, in questo modo potrebbe essere una giusta soluzione per dare stimolo all'imprenditore a investire, perché sta che se andrà bene, guadagnerà, potrà avere dei risparmi fiscali, certo, per quel lavoro che ha fatto. Gianluca, grazie molte anche a lei. Io vedo che siamo arrivati verso la chiusura e mi sono ricordata clamorosamente, me ne scuso con Laura Faggine perché è la seconda giornata consecutiva in cui lo faccio, non ho mandato l'altra scheda che avevamo preparato. Per cui Marco, raccontaci un po' tu come funziona il mondo del cinema tridimensionale. Beh, ho scoperto che quando noi andiamo al cinema a vedere un film in 3D, noi stiamo finanziando almeno tutta la filiera che ha prodotto quel film in 3D quando questo è prodotto in Europa. Finanziamo il produttore del film in 3D, finanziamo il distributore e finanziamo l'esercente, cioè il cinema vero e proprio, che per proiettare il film in 3D ha dovuto fare delle innovazioni tecnologiche, quindi sostanzialmente cambiare il proiettore e prenderne uno di formato digitale. Ecco, quei proiettori li abbiamo pagati noi attraverso dei fondi europei che servono appunto a questo, e sempre per promuovere la cultura europea. Cosa io mi rendo conto che sembra che stia raccontando una barzelletta, ma noi finanziamo cinema che stanno in Perù, a Osaka, in Argentina, se proiettano dei film europei. Pensavo italiani. Marco, grazie per essere stato con noi, ti auguro buone feste. Grazie, e le auguro anche a chi vorrà acquistare il tuo libro, che è edito da Chiare Lettere, Mani Bucate, con una dose di Malox anche accanto per digerire al meglio il contenuto. Noi ci risentiamo naturalmente lunedì, anche nella giornata della vigilia di Natale, con la presentazione di altri libri un po' più leggeri, più divertenti. A tutti buon fine settimana.